Ritorniamo in diretta sempre per parlare di piano casa, ovvero meglio delle ricadute in alcune zone di Roma, zone nelle quali comunque da tempo già va avanti o comunque si è costruito un seme di opposizione, diciamo. Abbiamo poc'anzi ascoltato quanto sta accadendo a Tor Pignattara, soprattutto in riferimento al progetto speculativo di Largo Perestrello. Ora invece con Dario, che è al telefono con noi. Ciao Dario, buongiorno. Ciao. Cerchiamo invece di capire quello che sta succedendo nel parco dell'ex SNIA, il centro sociale, dove da tempo insomma il costruttore Pulcini cerca di portare a termine i suoi piani speculativi. C'è stata una forte spinta nei giorni che hanno preceduto l'approvazione di questo maxi emendamento in comune, proprio per cercare di limitare il più possibile i danni e fare in modo che quella zona fosse esclusa dalle possibilità appunto di costruire. Ci chiediamo insomma come sia andata a finire, considerando il fatto che purtroppo il maxi emendamento ha fatto più probabilmente di quello che ci si aspettava, cioè ha regalato più ai costruttori di quello che in realtà si era richiesto e che in realtà la giunta avrebbe dovuto fare, cioè revisionare il piano uscito dalla regione Lazio per porre dei paletti. In sostanza ciò però non è avvenuto. Come sono quindi adesso, com'è la situazione riguardo il parco, Dario? Certo, allora questa è una vicenda che comincia negli anni '80, non la voglio fare tanto lunga, e una vicenda, un bel tentativo di speculazione che ha lasciato in un'area verde, una delle poche aree verdi che ha quella zona di Roma, un bello scheletro di quello che sarebbe dovuto essere un centro commerciale, che ha creato anche un laghetto. Le fondamenta di questo centro commerciale hanno anche donato un bel laghetto, e operato da Pulcini, che proprio in questi giorni gli hanno dato ragione su tutta la speculazione del razzo del presidente, quindi bello ringalluzzito sta ricominciando a veleggiare intorno al parco della SNIA. In questi giorni abbiamo visto un avanti e indietro di tecnici che fanno rilievi e stanno all'interno dell'area del parco della SNIA, quella che sta, per capirci, su via di Portonaccio, che è lì la zona dove la speculazione più grande deve avvenire, perché il resto del parco, un piccolo fazzoletto, siamo riusciti con 10 anni di lotte a strapparlo e a farlo diventare un parco pubblico. Ovviamente la richiesta che veniva dal quartiere, dal centro sociale, dai comitati di quartiere, dal comitato del parco, era quello di trasformare tutta quell'area in un grande parco che va dalla Prenestina a via di Portonaccio e a disposizione dei cittadini. E quell'area era destinata a verde pubblico e a servizi, ci sarebbe dovuto venire dentro una parte dell'università, ma Frati e compagnia cantante si sono guardati bene da spendere dei soldi per qualificare una zona con l'università, e quindi di fatto le uniche soluzioni per quel luogo che rimangono aperte sono quelle della speculazione, sono quelle delle palazzine e dei centri commerciali. Abbiamo fatto l'altra settimana, 2 settimane fa, una manifestazione a Largo Preneste per comunicare a tutto il quartiere qual era il rischio che si stava correndo con il piano casa, perché poi la comunicazione che passa è quella bella, i relitti urbani, il recupero delle zone abbandonate della città, il 30% dell'edilizia per l'edilizia a prezzo calmierato, però poi la verità è un'altra, la verità è che là dentro ci vogliono costruire palazzine di lusso, semi di lusso, e venderla a caro prezzo, quindi niente andrà a risolvere il problema dell'emergenza abitativa a Roma, ma saranno una marea di soldi e di possibilità di speculare per costruttori del calibro di Pulcini. La cosa divertente che abbiamo visto in questi giorni, e oggi ci sono tutti i giornali, le interviste a esponenti del PD, a esponenti della cosiddetta opposizione, che si sbracciano dicendo addirittura, credo De Luca stesso oggi parla proprio del parco della SNIA, quando questi personaggi nell'aula Giulio Cesare hanno di fatto ignorato e non votato un ordine del giorno, un emendamento che era stato presentato da Tarzan, che chiedeva non solo l'esclusione ovviamente per il parco della SNI al comprensorio Casilino, ma per tutte, l'esclusione dal piano casa per tutte quelle zone che erano destinate ad aria verde e servizi. Il PD non l'ha votato, un emendamento che è stato votato solo dalla Zuni di Sinistra e Libertà e non da Tarzan, perché Tarzan è stato espulso dalla Giulio Cesare, pure di che si era arrampicato su Giulio Cesare, quindi insomma l'hanno visto mentre esponeva questa problematica. E l'area della SNIA fa gola da sempre, fa gola a chiunque. Volevo ricordare che durante poco prima dei 6 mesi prima dell'inizio dei mondiali di nuoto veniamo a scoprire che lì ci volevano costruire una bella piscina olimpionica. Ora, costruire una piscina olimpionica a 6 mesi dai mondiali è una cosa irrealizzabile, quindi che voleva dire? Fare la cosa in emergenza con le regole che dava il commissario straordinario per i mondiali di nuoto, fare un bello scheletro e una piscina che poi si sarebbero andati a finire dopo e avrebbero tolto un pezzo di territorio, un altro pezzo di territorio al quartiere. Quella cosa l'abbiamo impedita, come 15 anni fa è stato impedito la costruzione del centro commerciale e delle palazzine, e quindi a questo punto bisognerà ricominciare a impedirlo sul territorio. Cioè la lotta, non ci abbiamo creduto neanche un minuto che al Campidoglio avrebbero voluto fare qualcosa per tutelare quella zona, quindi dovremmo ricominciare nel territorio, nel quartiere e nei cantieri a bloccare questa speculazione. Ecco, in questo caso però possiamo dire che si tratta di non rimettere in piedi, diciamo, una rete composta da strutture che si adoperino in modo tale da incentivare, diciamo, i passaggi di protesta e di costruzione della stessa, perché in questo caso una rete già esiste, fa soprattutto capo, insomma, al comitato di quartiere del Pigneto, quindi da questo punto di vista si è un passo avanti rispetto ad altre zone nelle quali, insomma, già si deve iniziare questo percorso. Fatto sta, insomma, che ci chiediamo quale sia stata la reazione soprattutto magari di cittadini e cittadine che partecipano al comitato di quartiere e che magari erano speranzosi che qualcosa, insomma, potesse cambiare, magari non proprio per effetto delle decisioni di Alemanno, ma casomai delle pressioni che si potevano fare in merito, no? Beh, diciamo che la reazione è un'incazzatura spaventosa, e stiamo preparando adesso delle lettere da inviare ai responsabili politici di questo atto, che siano del PD, del PDL o dell'UDC, perché al di là delle prese di posizione del giorno dopo, sappiamo tutti che nei territori ognuno ha il suo costruttore di riferimento, ognuno deve rendere conto a qualcuno, e che tutto sommato belle palazzine, centri commerciali a chi fa politica a quei livelli non danno di certo fastidio. All'interno della compagine che si oppone a questa speculazione c'è il centro sociale, c'è il comitato di quartiere, c'è il comitato del parco, che è fatto di anziani, mamme e papà con bambini, c'è persone quindi che non sono proprio dei trinariciuti estremisti, il WWF di quella zona, perché comunque sia, cioè, è bene ricordarlo che quella zona, il Prenestino, quella zona ha una quantità di verde irrisoria rispetto agli abitanti, cioè un municipio di 130.000 persone senza verde, senza servizi pubblici, come anche la zona del comprensorio Casilino. Cioè il comprensorio Casilino, lo sapranno raccontare i compagni di Pignattara, è una grandissima area verde con grandi anche resti archeologici e cose, nella quale passa in mezzo la metropolitana con un tracciato che è abbastanza strano, cioè non essendoci palazzi, non essendoci case, ci passa in mezzo la metropolitana. Quindi che queste zone sono oggetto di speculazione, di pianificazione della speculazione fin dai tempi di Rutelli e Bertone, quindi non ci stupisce poi il comportamento portato avanti dal PD e da chi dovrebbe fare opposizione in Campidoglio. Certo, per noi forse sarà un po' più facile, come dire, mobilitarci rispetto a tante zone di Roma, però la cosa difficile è poi comunicarlo al resto del quartiere, perché quando si parla di redditi urbani, recupero di luoghi abbandonati come tutto il complesso dell'ex fabbrica SNIA, sembra quasi che sia una cosa positiva, una cosa va a creare case, crea lavoro, però poi diciamo che la verità non viene mai raccontata. Eh sì, purtroppo i mezzi della propaganda di cui possono beneficiare lor signori sono assolutamente impari rispetto a quanto possiamo fare noi, quantomeno sul piano della propaganda. Poi sul piano dei rapporti reali, beh, lì diciamo che ce la si può anche giocare. La possiamo giocare, ecco, ce la troveranno lì, insomma, giocare, esatto. Davanti ai cancelli della SNIA ci trovano. D'accordo, d'accordo. Dario, ti ringraziamo e ci sentiamo a presto anche su questa questione. Ciao. Grazie.